Oggi parleremo della pulizia del midollo. Innanzitutto vorrei precisare che per midollo si intende, nella medicina orientale, anche la parte cerebrale. Quindi la pulizia del midollo non influisce solo sulle ossa. Rafforza il sistema immunitario, aumenta la robustezza e la densità delle ossa stesse, immagazzina il qi nel Dan Tien, stimola il flusso del qi attraverso la pelle e diversi punti dell'agopuntura, ma soprattutto fa bene al cervello. I movimenti base o fasi sono quattro. Prima fase, il Buddha che medita. State in piedi nella posizione del palo con le mani davanti al Dan Tien, situato dietro e sotto l'ombelico, a 30 cm circa tra una e l'altra. I palmi delle mani si guardano. Immaginate che sostengano una sfera di energia. Attraverso l'immaginazione si arriverà col tempo alla percezione. Questa posizione di per sé è già molto importante e più si mantiene meglio è. Lentamente sollevate questa sfera fino all'altezza del petto, quindi ruotate ed unite i palmi delle mani a preghiera, con i pollici appoggiati allo sterno. Mantenendo questa postura, concentrandovi dentro di voi sul Dan Tien, respirando, portate la mente al silenzio, alla calma. Mantenete questa postura per 2 o 3 minuti. Ora lasciate che le mani si separino e portatele ai fianchi. Rilassatevi. Seconda fase, l'essere cosmico. Lentamente sollevate le braccia lateralmente sul lato del corpo, con i gomiti leggermente flessi ed i palmi delle mani che guardano avanti. Quando le braccia raggiungono l'altezza delle spalle, rivolgete i palmi verso l'esterno, con le dita che puntano al cielo. Mantenendo questa postura, immaginate di essere un gigante, guardandovi dall'alto e che il vostro corpo riempia l'universo. La punta della vostra testa tocca il cielo, i piedi arrivano fino al centro della terra. Il braccio destro si estende all'infinito a destra, il braccio sinistro si estende all'infinito a sinistra. Immaginate che i pori della vostra pelle siano aperti, che tutto il vostro corpo sia aperto e permeabile all'esterno. Il qi universale vi attraversa con facilità. Dimenticatevi del respiro, lasciatelo libero come viene. Mantenete questa concentrazione per 2 o 3 minuti. A questo punto portate la mente sul Dan Tien, sentite il respiro che si muove al suo interno, tornate alla consapevolezza del corpo, fate scendere le mani lungo i fianchi del corpo e rilassatevi. Terza fase, pulire il midollo con una mano. La mano sinistra si porta lentamente dietro al corpo, fino a che il centro del dorso si colloca comodamente sulla zona lombare, dalla parte opposta dell'ombelico. Avete così allineato il vostro mini chakra della mano con la porta della vita del dorso. Questo migliora il funzionamento dei reni e delle ghiandole surrenali. Mentre la mano sinistra si sta portando in questa posizione, la mano destra si solleva lateralmente, fino a che il palmo della mano destra si trova a circa 15 cm sulla sommità del capo, rivolto verso il basso. Sentite la connessione che si presenta tra il centro del palmo destro, mini chakra, con il punto del chakra maggiore sull'apice della testa, per capirci la fontanella. Immaginate, poi visualizzate ed infine percepite il vostro stesso campo energetico emanato da voi stessi. In questo modo state bilanciando le energie Am Zung in vietnamita, Yin Yang in cinese, negativo e positivo, perché è qui che i canali positivi del dorso si incontrano con quelli negativi della parte frontale del corpo. Mantenete questa posizione solo per un momento, abbastanza da sentire una piacevole stimolazione della zona lombare e della sommità del capo. Quindi abbassate la mano facendola passare davanti al corpo, il palmo rivolto verso di esso. Mentre scende, immaginate che un flusso di energia irradi il centro delle vostre ossa con uno scanner. Quando la mano infine si rilassa al fianco, anche l'altra che era sul dorso scende. Immaginate ora che tutte le impurità raccolte lungo il corpo se ne escano attraverso i piedi, sprofondando per almeno un metro sottoterra. Adesso potete passare dall'altra parte. La mano destra si deposita sulla zona lombare, col centro del dorso sulla colonna vertebrale, diametralmente opposta all'ombelico. Il braccio sinistro si solleva fino a che il palmo della mano sinistra guarda sul capo. Connessione dei chakra, fontanella, la mano sinistra quindi scende lavando il midollo di tutte le ossa. L'energia impura esce infine dai piedi. Lasciate le mani rilassate lungo i fianchi per un momento prima di passare all'altro esercizio. Potete ripetere il gesto alternando prima una mano poi l'altra, anche tre o multipli di tre volte per parte. Lasciate libero il respiro. Prima di passare all'ultima fase, rilassatevi e ritrovate il vostro centro. E siamo arrivati alla quarta fase, pulire il midollo con entrambe le mani. Alzate entrambe le mani lungo la linea mediana del corpo, con i palmi rivolti in alto. Una volta raggiunto lo sterno, girate le mani e spingetele sopra la testa. I palmi ora sono rivolti al cielo, con le braccia allungate. Mantenete questa postura per circa 10 secondi, immaginando di essere un albero, con radici profonde e rami che salgono in alto, unendo così il cielo e la terra. Quindi girate i palmi ed abbassateli leggermente, fino a farli arrivare a 15 cm circa dalla sommità del capo, ma senza far toccare le mani. Le dita della destra e della sinistra sono separate da qualche centimetro. Mantenendo questa postura, avvertite il vostro campo energetico, la vostra aura. Quindi fate scendere entrambe le mani davanti al corpo, immaginando che un flusso di chi puro, benefico, attraversi il midollo delle ossa, sempre come uno scanner, proprio come nell'esercizio precedente. Con le mani che raggiungono i fianchi e si rilassano, le impurità energetiche escono dai piedi, penetrando sottoterra. Rilassatevi e fate andare il respiro da solo. Questo esercizio conclusivo viene eseguito una volta soltanto. E vi lascio con un proverbio cinese: il maestro ti apre la porta, ma entrare sei tu.